Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Presentato all'Istituto Superiore di Sanità, la 10ª edizione dei numeri del cancro in Italia, Obiettivo Salute e il commento del professor Giordano Beretta, presidente nazionale AIOM e responsabile oncologia medica all'Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Professor Beretta, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Professor Beretta, partiamo dalle buone notizie. I tassi di incidenza sono in riduzione in quasi tutte le neoplasie. Assolutamente è così. I tassi di incidenza sono in riduzione e sono in riduzione pressoché per tutte le patologie, con l'eccezione del melanoma e del tumore del pancreas in entrambi i sessi, del tumore del polmone nelle femmine, e si manifesta anche un lieve aumento dei tumori della mammella, ma quest'ultimo aspetto è legato al fatto che diverse regioni hanno ampliato l'età degli screening, quindi individuiamo alcuni tumori che non ci saranno più in futuro, in più proprio perché si è ampliata la fascia di screening. Altre neoplasie sono in nettissima riduzione, e sto parlando per esempio delle neoplasie gastroenteriche, escluso il pancreas, e importante è anche la riduzione del tasso di incidenza del tumore del polmone nei maschi. Professor Beretta, questi dati suggeriscono quanto siano fondamentali le strategie di prevenzione primaria e l'adesione agli screening. Assolutamente è così. Noi abbiamo alcuni ambiti in cui questo si vede in modo importante. Per la prevenzione primaria, nel caso del polmone, abbiamo una riduzione del tasso di incidenza del 6,5% e una riduzione della mortalità che addirittura è dell'11,2% nel sesso maschile, che ha smesso progressivamente di fumare, mentre abbiamo un incremento del 2,5% in termini di incidenza e addirittura del 5,2% in termini di mortalità nel sesso femminile, che alcuni anni fa, noi stiamo scontando quello che è successo 10-15 anni fa, hanno cominciato a incrementare il fumo. Il melanoma vede un numero di diagnosi decisamente in aumento, ma questo perché adesso c'è una maggiore attenzione e quindi si fa la valutazione dei nei che prima si faceva meno, e perché stiamo scontando quello che è stato l'impatto delle lampade solari fine millennio scorso, inizio questo millennio. Però la prognosi del melanoma è migliorata tantissimo, da un lato perché si evidenziano lesioni più iniziali che spesso non danno problemi reali una volta rimossa, e dall'altro perché abbiamo a disposizione terapie più attive rispetto a qualche anno fa. Ma il numero ancor più importante assolutamente è quello del colon retto, dove la prevenzione secondaria, cioè lo screening per il carcinoma del colon retto, ha avuto un effetto anche in termini di prevenzione primaria, perché andando a rimuovere non solo le lesioni tumorali in fase iniziale, ma addirittura le lesioni precancerose, sostanzialmente ha portato a una stima di riduzione che è circa del 23% rispetto a quello che era stato previsto una decina di anni fa, e che è di oltre l'11% rispetto a quello che era stato previsto l'anno scorso. Quindi il concetto è: lo screening del carcinoma del colon fa prevenzione secondaria, ma fa anche prevenzione primaria. Professor Beretta, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Buona giornata a lei. E io vi aspetto come sempre nei nostri appuntamenti video sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Oggi incontriamo Elena Casiraghi, che ci racconta la sua ricetta per una nuova strategia del benessere. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.